in primo piano. Buongiorno, allora le prime pagine di stamattina, come prevedibile, sono dominate dai due temi che stanno caratterizzando l'informazione questi giorni: il divorzio tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi e Fiat Opel, dopo il matrimonio con la Chrysler, il tentativo di Sergio Marchionne di portare a casa anche l'accordo con la filiale tedesca della General Motors. Allora, cominciamo col feuilleton sul divorzio del Premier. Scendono in campo i direttori, e quindi queste cose succedono soltanto quando le notizie sono molto importanti, sia sul Corriere della Sera che sulla Stampa. I rispettivi direttori Ferruccio De Bortoli e Mario Calabresi parlano con Silvio Berlusconi, e ecco che cosa dicono. Il titolo di apertura del Corriere della Sera è Veronica che deve scusarsi, Berlusconi dice so da chi è sobillata. Sulla Stampa invece l'apertura del giornale, appunto firmata dal neo direttore Mario Calabresi, è sempre il Premier che parla: mi dispiace per i miei figli, ma stavolta è finita. Sempre in tema delle vicende familiari del Premier, il Corriere della Sera adombra l'ipotesi che per sistemare le vicende patrimoniali legate a questo divorzio ci sia l'ipotesi di una Fininvest 2. Appunto, voi sapete che il tema della divisione del patrimonio tra i cinque figli del Premier ha sempre fatto da sfondo alle vicende tra Berlusconi e sua moglie. Il titolo di Repubblica invece è Berlusconi, sono addolorato ma le darò il divorzio. Titolo un pochino più forte, l'Unità, basso impero, ovviamente il titolo è decisamente più schierato. Questo per quanto riguarda i titoli sul caso Berlusconi, Veronica Lario, sulle prime pagine di stamattina. Passiamo sempre alle prime pagine, al caso Fiat. Il Corriere titola scorporo dell'auto per la fusione con l'Opel, supergruppo in borsa entro l'estate, dubbi dei sindacati e della tedesca SPD, i socialdemocratici, ma Torino è l'unica chance. Titolo abbastanza simile anche per Repubblica, Fiat Opel, operazione borsa, scorporo dell'auto se c'è la fusione. Il Messaggero avanza invece l'ipotesi che gli Agnelli, la famiglia Agnelli, sia pronta a portare la sua quota nel gruppo che nascerebbe da questa grande aggregazione di produttori automobilistici europei ed americani, dall'attuale 33,6% ad una cifra più vicina al 10-20%. Il Giornale invece, sempre tra le sue indiscrezioni, ipotizza la cessione dell'Iveco, del costruttore di camion del gruppo Fiat, appunto per finanziare l'operazione. Mentre un ultimo titolo che riguarda questa vicenda ve lo leggo dal Foglio, il direttore Giuliano Ferrara dice festeggio, ma gli americani in 500 non ce li vedo proprio, ed è uno appunto delle grandi incognite su questa operazione industriale finanziaria importantissima, ma che effettivamente è una grande scommessa anche per il futuro del Lingotto. Allora, andiamo ancora velocemente agli altri titoli sulle prime pagine dei giornali di oggi. Afghanistan, con il caso dei soldati italiani che sparano contro un'auto, muore una bambina, è il titolo più o meno analogo che hanno sia Corriere che Repubblica. Il Giornale invece riprende un'indagine del Sole 24 Ore e apre con il titolo il 60% degli operai vota PDL e Lega. Poi vi segnalo una storia di sprechi tipica dell'Italia di questi anni, ce l'ha il Corriere della Sera in prima pagina, riguarda la vecchia Alitalia, quella in amministrazione straordinaria gestita dal commissario Fantozzi racconta di 60 sedi della vecchia società da chiudere. Il commissario è appunto alle prese con i mega costi dei dipendenti all'estero. Tra le curiosità, vi cito questo caso, a Hong Kong sono stati scoperti 15 dipendenti che non hanno una sede ma che vivono in hotel. Sempre sul tema così delle notizie curiose, in prima pagina vi segnalo Repubblica, Italia maglia nera nell'Unione Europea per i laureati, i dottori under 34 sono solo il 19% e ci superano praticamente quasi tutti i paesi europei, dietro di noi ci sono soltanto cechi, slovacchi e romeni. Ultimo argomento delle prime pagine di stamattina, l'influenza A, influenza suina come la volete chiamare, perde un po' di spazio, diciamo, vista che la virulenza sembra meno forte di quella che si temeva, anche se il Messaggero ci apre comunque il giornale, forse perché appunto il secondo caso si è verificato a Roma, c'è un positivo al virus ma sta bene. È il titolo del quotidiano romano. Bene, passerei a questo punto a segnalarvi un paio di editoriali. Sul Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia si riferisce all'assurdo limite di un terzo mandato per i bravi sindaci. Vi leggo solo un passo velocissimo dove se la prende appunto in vista delle prossime elezioni amministrative con questo limite che dice esiste solo in Italia. La regola dell'ineleggibilità è controproducente. Lungi dal combattere il male che dice di voler estirpare, essa semmai lo favorisce, rinfocolando proprio il carrierismo politico. Nella stragrande maggioranza dei casi, infatti, l'uomo pubblico che arriva al suo secondo mandato come sindaco e sa che non potrà essere rieletto, piuttosto che ritirarsi tranquillamente nell'ombra, cercherà di assicurarsi in tutti i modi qualche nuovo e diverso incarico, utilizzerà la sua carica ormai in scadenza per procurarsi le amicizie opportune, per ingraziarsi i poteri e gli uomini che gli servono, piegando a questo scopo l'operato dell'ultimo periodo della sua amministrazione, con quale giovamento per i suoi amministrati è facile immaginare. Questo era Galli della Loggia sul Corriere della Sera. Ci sono poi molti editoriali ovviamente dedicati alla vicenda Fiat Chrysler Opel. Vi segnalo quello di Massimo Mucchetti, sempre sul Corriere, l'euforia, parentesi, troppa, e i conti, è il suo titolo, analizza i conti della Fiat e i rischi che l'operazione matrimonio sia negli Stati Uniti che in Germania comporta. L'editoriale invece di Repubblica, firmato da Salvatore Tropea, è un gruppo gigante, stiamo parlando di 80 miliardi di fatturato, sarebbe il secondo gruppo automobilistico del mondo se andasse in porto anche la fusione con i tedeschi, un gruppo gigante appunto per convincere Berlino. Bene, adesso facciamo un passaggio sulle notizie della politica. Campeggiano soprattutto le iniziative della Lega rispetto al referendum elettorale. Bossi prepara la sua legge elettorale, la faremo con chi ci sta, titola il Corriere della Sera. Il Corriere ancora ha un'intervista al segretario del PD Dario Franceschini. Italia a rischio Turkmenistan, dice Franceschini, mentre il Premier ha un solo scopo, prendersi tutto. Il titolo politico della Stampa riguarda invece i sondaggi che adesso fanno paura al PDL, il riferimento è alle vicende che riguardano appunto Berlusconi e Veronica Lario, il timore nei sondaggi è che questo divorzio possa danneggiare elettoralmente il PDL, mentre sempre dalla Stampa Bossi dice non bisogna far star male le mogli e i figli, e questo è un altro evidente accenno alla vicenda del Premier. Bene, passiamo ai titoli economici, alle vicende economiche. Campeggiano sui giornali ovviamente le notizie che riguardano la crisi, così la finanza USA è insostenibile, allarme della Casa Bianca, titola Repubblica. Il PIL europeo va verso un calo del 4%, mentre la BCE taglierà probabilmente questa settimana ancora i tassi di interesse, si va verso l'1%. Questi sono tutti elementi della titolazione di Repubblica. Il Sole 24 Ore di oggi invece apre con una inchiesta dedicata ai consumi alimentari delle famiglie. La sorpresa è che tra Rimini e Napoli per gli stessi prodotti c'è una differenza del 25%, il titolo del 24 ore è appunto "In Romagna la spesa più cara". Una notizia a cavallo tra l'economia e la scienza è invece quella che dà il Messaggero e qualche altro giornale, il supermotore di ricerca che lancia la sfida a Google. Si chiama Wolfram Alpha e all'inizio sarà rivolto agli scienziati e, secondo quello che scrivono i giornali stamattina, potrebbe essere una sfida a quello che è il motore di ricerca per eccellenza usato da tutti gli utenti di internet nel mondo. Sempre in materia economica, vi volevo segnalare un'intervista del ministro Calderoli che rilancia il tema delle gabbie salariali con un'intervista al giornale, visto che dice ci sono differenze così forti nella capacità di spesa nelle singole regioni italiane, è bene che ci si adegui anche sotto il profilo retributivo. E quindi il tema delle gabbie salariali, che gli ascoltatori ricorderanno, è un classico delle polemiche tra economisti di questi ultimi decenni, viene rilanciato appunto dal ministro Calderoli. Ancora un ultimo sguardo agli inserti. Affari e Finanza di Repubblica lo dedica alla rinascita del sindacato negli Stati Uniti, mentre il Corriere Economia si dedica agli avversari da battere nel caso nuova Fiat e si dedica appunto alle mosse di Volkswagen, Renault, Nissan e Toyota. Bene, a questo punto finisce la prima parte della rassegna, do la linea alla viabilità, ci sentiamo tra qualche minuto. In primo piano. Allora, prima di proseguire con la rassegna stampa dei giornali di stamattina, volevo tornare appunto sul caso Fiat Opel che domina le prime pagine di questa mattina, leggendovi un breve brano dell'editoriale di Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera, dal titolo "L'euforia, parentesi, troppa e i conti", in cui appunto esprime qualche dubbio sull'euforia con la quale tutti stiamo accogliendo la grande operazione della Fiat. Ecco, Mucchetti in particolare si riferisce al quando parla di Opel, dà per scontati i problemi che abbiamo affrontato nei giorni scorsi leggendo i giornali del matrimonio con la Chrysler, e dice ma il problema sarà molto più duro con l'operazione Opel. Il taglio dei costi aumenta i margini ma preoccupa i sindacati, perché lo stesso taglio significa meno occupati e meno salari e non tanto risparmi sugli acquisti, visto che questi già c'erano in seno al gruppo GM, o sulle tecnologie, visto che Opel ha già il multijet della Fiat. In Germania, dove il costo del lavoro è più alto e i sindacati partecipano al consiglio di sorveglianza, è logico attendersi le resistenze più forti. Fiat, Chrysler, Opel, tutto per arrivare a 6 milioni di auto, la soglia che Marchionne reputa minima per reggere nel futuro. Ma è vera questa teoria o serve a giustificare come inevitabili le trasformazioni che il progetto di Marchionne sta proponendo agli stakeholder della Fiat, azionisti e dipendenti in primo luogo? Questa è appunto la domanda che si pone Mucchetti sul Corriere della Sera a proposito del caso Fiat Opel. Volevo darvi ancora un ultimo elemento tra le notizie di carattere economico, tornando su questa intervista del ministro leghista Calderoli sulle gabbie salariali. È un'intervista al giornale. Il ministro dice: è giusto che dove la vita costa di più gli stipendi siano più alti. Parlando invece del referendum, dice: non credo che Silvio voglia una crisi di governo. Quindi la Lega, diciamo, tiene alto i suoi distinguo in materia di riforma elettorale. Come sapete, il referendum si terrà il 21 giugno, però è già al lavoro per cercare di disinnescare la mina, ma continua comunque a dire che se il Berlusconi dovesse andare avanti c'è il rischio di una crisi di governo. Bene, direi di passare adesso brevemente alle notizie dagli esteri. Vi segnalo un titolo forte della stampa: Fidel Castro, Obama, vergognati, è la reazione di Cuba dopo che gli Stati Uniti hanno rimesso appunto l'isola caraibica nella lista degli sponsor del terrorismo dopo le aperture iniziali che il presidente americano aveva fatto per cercare di rompere un muro che separa diciamo Cuba dagli Stati Uniti da più di 60 anni. Un altro titolo che vi segnalo è quello che invece fa il giornale: Brown ha fallito, laburisti pronti a spodestarlo. È il titolo appunto del giornale, riferito alla perdita di credibilità nei sondaggi del primo ministro inglese Gordon Brown, e con la voglia dei laburisti che, scontenti del suo operato, stanno cercando di trovare un candidato premier prima che il risultato elettorale si riveli una debacle per la sinistra che guida il governo inglese. Vi farei poi un breve cenno ai fatti di cronaca. Vi segnalo che tra i titoli più importanti vi è l'arresto di Raffaele Diana. La stampa dice nel suo titolo: Gomorra perde il suo numero 3, appunto dopo che le forze dell'ordine hanno arrestato uno dei camorristi più ricercati. Prima di chiudere, visto che è lunedì, non posso non fare un cenno ai titoli sportivi. Vi leggo la Gazzetta dello Sport, che titola il giornale: Milan a 5 stelle, rossoneri vincono anche a Catania e tengono il passo dell'Inter, Inzaghi, Kakà firmano la quinta vittoria di fila, più 4 punti sui bianconeri. E sempre a proposito dei bianconeri, la stampa mette in prima pagina un richiamo che dice: la Juve delude, Ranieri verso l'addio. Ecco, questo è l'ultimo titolo che vi ricordo, e per oggi la rassegna stampa si conclude qui. Vi do appuntamento a domani alle 7:30. La linea torna a 24 mattina con Alessandro Milan.